Seconda parte, verso l'ignoto promettente. Io non sono venuta dalla tua costola, tu sei venuto dal mio utero. Con cinque vado oltre la porta nascosta. Esiste una porta nascosta verso l'utopia, verso il paese delle speranze esaudite, dei desideri realizzati, dei sogni materializzati. Sta lì, nel nostro essere. Dietro gli schemi imparati, sotto alle paure imposte, fra le righe dei testi prefabbricati, dei ruoli da recitare. È la disponibilità alla morte che ce la fa scoprire. La morte delle condizioni attuali, degli eventi ripetitivi, degli avvenimenti imprigionati che ci tengono in una certa cornice di possibilità. La morte della propria identificazione con i modelli socialmente accettati dell'essere donna, della definizione dell'io mediante schemi plasmati dalla necessità di sopravvivenza. È la brama di seguire quel filo luminoso e sottile delle conoscenze altre che ci conduce, lungo il non sapere, verso l'essere intessute in un contesto altro, più grande, più sensato. Lì la domanda del senso della vita. Non si pone, tutto è, influenzate e influenzando fluentemente, nella comunicazione continua della perenne creazione, dove la realtà è una cosa meno solida della risata, dove l'unica stabilità si trova nel cambiamento perpetuo. Spiri cosa? Questo spazio ampio, immateriale, dove ci si trova collegate, intessute, parti di un uno grande quanto il niente, normalmente porta l'attributo di spirituale o, nell'ambito della psicosintesi, transpersonale. Una parola ingombrante che tante volte, piuttosto che suscitare curiosità verso dimensioni altre, ostacola l'avvicinamento. Il termine spiritualità tocca un tabù radicato, soprattutto quando la percezione è influenzata dalla tradizione cristiana. Incontriamo qui di nuovo la corrente della memoria con il suo timore di sfiorare un argomento che nelle nostre cellule ha la connotazione di proibito, di dolore, di sporco. Invece, nel tentativo di ridefinire questo termine, di riacquisirlo con un significato proprio e autentico, ci si può riavvicinare alla radice della parola stessa. Lo spirito è l'essenza di una cosa. Se diamo alla parola spiritualità il significato di occuparsi del cuore di una cosa, del suo nucleo, della sua essenza, invece di farci ingannare e illudere da apparenze esterne, possiamo accedere a un aspetto allettante e inaspettato di questo termine e superare le connotazioni spiritistiche, i ciarlatani che l'interesse governante ha sovrapposto per distorcere a proprio vantaggio i contenuti del sapere e potere femminile. Possiamo serenamente volgerci verso la spiritualità, verso il mondo spirituale, anche nell'interpretazione di cose poco serie. C'è da divertirsi. Certamente ci sono anche dei passaggi di turbamento, di insicurezza, di dolore e di smarrimento. Il cuore, il nucleo, lo spirito, però, non ci vuole con cuori pesanti, incatenati fra colpe e doveri, tutt'altro. La serenità e l'umorismo diventano strumenti dell'agire politico, del non permettere di essere catturate in uno stato perenne di scontentezza, malumore, carenza e sottomissione a certi schemi intenzionati, a privarci del nostro potere spirituale di comprendere il senso delle cose. L'essere in contatto con una dimensione altra, con le energie delle proprie alleate, offre uno stato d'animo gioioso, divertito, giocoso. Offre agevolezza e sostegno nella quotidianità, con le sue mansioni e compitini, e supporto nell'attraversare le tappe della crescita personale. Apre alternative alle visioni conosciute riguardo alla propria collocazione nel flusso della vita. Supera i limiti delle religioni e della psicologia, proponendo dei paesaggi privi di gerarchia e interpretazioni umane del proprio vissuto, lasciando che entrino le influenze delle stelle e delle pietre, dei folletti e dell'orsa, del ragno e del serpente, della danza sfrenata e della risata incontenibile. La spiritualità, riscoperta nella sua espressione femminile di donna, invita a giocare con quel che sempre si è saputo, con le intuizioni a cui mai si è dato credito, con le percezioni di presenze che sono state cacciate via perché considerate maligne e illusorie, invece di dar loro ascolto e accoglienza. È permesso e gradito curiosare nel mondo delle fate e tornare con il loro dono in cambio di una canzoncina. È riconosciuto il contatto con essenze e identità che aspirano a essere in contatto con noi per arricchire le nostre vite. È gradito che si amplifichi la dimensione della visione sulle cose, che si vada oltre la materia. È qui che inizia la danza. Come funziona l'autonomia? Il conflitto nasce sul suolo impoverito di una necessità, di un desiderio rivolto verso l'altra, del bisogno di essere riconosciute, amate. Nasce e fiorisce all'interno di paradigmi patriarcali che limitano il vissuto a livello umano, dove si rimane dipendenti da altre persone per colmare dei bisogni non del tutto chiari. Come funziona sentirsi bene? Cosa è importante per procurarsi agio e benessere? Interezza, ricchezza, divertimento, dignità, pienezza, sicurezza e riconoscimento. La gioia nel contatto con altri esseri umani, con amiche, amici, amanti, madri e figlie, colleghe, conoscenti. L'ispirazione che avviene nel tocco profondo e delicato, nell'incontro di genialità, nello scambio di esperienze, nella condivisione sensuale, si amplifica quando si sta nella propria autonomia e interezza, quando si è indipendenti da altre persone, dalle circostanze materiali ed emozionali. È nella certezza di potersi rivolgere, come primo indirizzo, ai collegamenti del sapere implicito e nel lasciare che le espressioni delle interazioni necessarie per sopravvivere e arricchirci emotivamente si svolgano in leggerezza e flessibilità, che giace il dono dell'autonomia. L'indipendenza dal desiderio e dalla necessità di sentirsi amata e riconosciuta da parte di un altro essere umano. L'amore è ciò che fa scorrere la linfa della vita. È presente in tutte le sue manifestazioni. Se si è in contatto con se stesse e con la terra, l'amore non manca. È onnipresente e gratuito, è sempre disponibile e abbondante. Si tocca l'essenza e lì ci si nutre. Lì si trova la sicurezza riguardo la conoscenza del proprio universo, il luogo dove si è collocate. Lì si coltiva la certezza di gestire giocosamente l'andamento della propria vita, di non essere sole e che ci sia un interesse amorevole che vuole che si esista. Il conflitto fra le donne non si risolve all'interno dei paradigmi della cultura in cui si svolge. È il sintomo di una malattia che vuole essere guarita alla radice. Occuparsi del sintomo porta a un miglioramento temporaneo, non a una condizione durevole e a una riuscita guarigione. Il conflitto fra le donne si risolve cambiando l'ambiente che lo provoca quale espressione del suo malessere. E l'ambiente si cambia cominciando da se stesse. Si risolve ampliando lo sguardo, lasciando che entrino i miraggi della continuità e la saggezza del canto della gufa. Si risolve cambiando paradigmi nel proprio essere, riallacciandosi alle dimensioni più vaste delle cognizioni intrinseche oltre lo spazio e il tempo. Si risolve nel rivoltarsi verso la propria profonda conoscenza al di là del dettame patriarcale, scoprendo e sfatando i limiti delle proprie possibilità. Con sei produco oro, l'avventuriera in lande sconosciute. Le cantilene. Come si potrebbe crescere senza sfide? Ammesso che siamo qui sulla terra per crescere, che stai tenendo in mano questo testo per il desiderio di sconfinare i limiti che avverti in questo momento, di comprendere qualcosa, di vederlo in una luce diversa, Come si potrebbero scoprire i propri punti ancora da elaborare se non attraverso le difficoltà che si presentano sul cammino? Cos'è che ci fa inciampare e ci distoglie dal quotidiano, creando quell'attimo fra un secondo e l'altro in cui si insinua la saggezza, la chiaroveggenza, in cui, con un leggero senso di vertigini, si avvertono le piroette e i salti avventurosi di una danza complessa e connessa oltre le dimensioni della quotidianità? Spesso è un qualche intralcio, un avvenimento accidentale che ci lascia il gusto dello stupore, un evento improvviso che apre le crepe nelle strutture tramandate. Anche il conflitto ha questo potenziale. In quest'ottica si può anche sviluppare una gratitudine per le occasioni di sfida, quindi di crescita, una riconoscenza verso la persona che crea lo scompiglio, il disagio, il dolore e il dispiacere. Nel comprendere gli avvenimenti della vita come espressioni di una propria volontà, forse non cosciente ma solida e reale, diventa naturale sviluppare riconoscimento per le persone disposte a recitare quelle parti necessarie per completare il proprio quadro. Con questo ragionamento si esce dalla dinamica dell'accusa-difesa per aprire la porta a una serie di ospiti illustri che, se non altro, sono molto più divertenti rispetto alle nemiche conosciute finora. Si invitano la generosità, la vastità, la perspicacia e la furbizia, l'intelligenza e l'amorevolezza. Forse si riconosce dove siamo noi stessi a ricoprire una tale funzione per altre persone, per altre donne, dove contemporaneamente al vissuto personale si assume un ruolo utile a un'altra per completare il quadro di un avvenimento. A volte si coglie uno scorcio sugli infiniti intrecci fra gli individui attraverso le epoche, su una trama che viene tessuta pezzo per pezzo da vite singole che si pensano indipendenti e isolate. Si apre un varco e si presenta il paradosso. È così che si fa strada anche la grande risata. Secondo raccolto. I ritornelli utili. Agire si può soltanto su se stesse. Quando ci si trova nel bel mezzo di litigi sfrenati, grovigli di accuse e difese, di rimproveri e interpretazioni scagliati rabbiosamente verso l'altra, è utile riconoscere che ci troviamo in balia degli schemi della condizione base delle donne che si ripetono e riproducono trauma e dolore. L'unica via di uscita è di volgere l'indagine su se stesse e sui propri bisogni, abbandonando tutto quello che si è convinte di sapere su un'altra donna, su tutti i suoi sbagli e le sue motivazioni. Le interpretazioni e i giudizi sull'altra non portano a niente se non a irrigidire ulteriormente la situazione, offrendo l'occasione al disprezzo, al sarcasmo, al cinismo di insinuarsi e inasprire, dove piuttosto sono richieste accoglienza e compassione. Io non posso cambiare l'altra persona. Deciderà lei stessa se intraprendere un cammino oltre il conflitto, e questa scelta sta esclusivamente a lei. Io posso decidere di cambiare i presupposti che preparano l'avvento del conflitto. I miei presupposti, saputi o non saputi, consapevoli o meno, assumendo il potere sulla mia vita. Non c'è rabbia senza ferita. Concedersi di ammettere che ci sono delle ferite nel mio essere è un passo molto importante. Vuol dire lasciare che il dolore si espanda, che le immagini emergano, smascherare le tante strategie di difesa funzionali a non essere toccata, e offrire ascolto al proprio disagio senza la valvola dell'accusa e della rabbia rivolta verso l'esterno. Può essere di grande sollievo collocare le ferite poi in un tessuto più grande rispetto alla storia personale. Allora divengono comprensibili, compassionevoli, anche le ferite delle altre, sia di una donna singola come del complesso di donne inteso come campo morfico con cognizioni specifiche e condivise. Ci può essere ferita senza rabbia. Il conflitto può essere compreso come un tentativo di guarigione da parte della ferita preesistente all'evento conflittuale. Tutto tende sempre alla guarigione, che magarisce gli andamenti e apparenze sorprendenti per esaudire la brama dell'interezza. Accogliere la ferita, per riconoscere che la base della nostra cultura è profondamente morbosa e quindi in una qualche parte più o meno anche tutti i suoi rappresentanti, cambia completamente non soltanto la posizione di partenza e il suo presunto diritto di giudizio, ma anche le aspettative di coerenza e perfezione spesso e volentieri volte verso l'esterno. Non c'è modo di abbandonare il dolore senza dargli ascolto. Vagare senza sapere, in modo che il non conosciuto dentro se stesse possa emergere senza definizioni e titoli limitanti, è una pratica magica di grande efficacia. Finché si nega nel proprio sistema ciò che suscita situazioni difficili, come il conflitto, gli si concede di avere potere illimitato sulle proprie azioni e prima ancora sul proprio sentire e percepire, lasciando che si formino convinzioni e definizioni nelle fondamenta del proprio essere. L'accusa e il rimprovero svelano una posizione di mancanza, di povertà, di bisogno. Nessuno, nessuna attacca da una posizione di agio, abbondanza e benessere. Indagando si può scoprire la disperazione dietro un'accusa o un rimprovero, un bisogno non esaudito, una delusione dell'aspettativa di colmare una lacuna nel proprio sistema. Questo malessere di base può avere delle cause anche oltre la sfera personale, derivare da condizionamenti storici, culturali e sociali, da moventi transpersonali, eredità della propria stirpe o di spiriti con cui si è connessi. Esistono tante realtà quante sono le persone. Accogliere la possibilità che la mia verità è una soltanto di un'infinita possibilità di versioni dello stesso avvenimento apre la comprensione non soltanto all'universo dell'altra persona, ma anche alle proprie limitatezze nella considerazione della natura stessa della realtà. Permette di essere diversa nel proprio sentire e concede contemporaneamente all'altra la sua espressione di diversità senza l'obbligo d'intesa, senza la necessità di andare d'accordo. Il conflitto fra le donne si risolve cambiando cultura. Può risultare piuttosto inefficace voler chiarire il conflitto su livello interpersonale e all'interno dei paradigmi conosciuti, lasciando spazio a rassegnazione e amarezza. Invece può essere molto più funzionale e appagante provare a stabilire insieme il campo condiviso di ricerca per scongiurare, collaborando per una meta condivisa oltre l'importanza personale, le regole del gioco proposte dalla cultura attuale. Così si stabilisce una cornice condivisa in cui potranno emergere, dal buio del segreto e della memoria, gli schemi e le impostazioni e si aprirà la strada ad alternative provenienti dalla profonda intelligenza intrinseca. Farsi condurre e ispirare da una fonte esterna in questo cammino verso la rivoluzione può essere facilitante e consolante. Con sette il serpente porge il suo regalo finalmente primitiva. Primitivi. Raccogliendo i frutti delle esplorazioni eseguite finora, la domanda riguardo alle alternative di comportamento nel conflitto fra le donne, per evitare di rimanere deluse, tradite, amareggiate, sconfitte dagli avvenimenti e dalle parole affilate, si può riformulare così. Come si può costruire una cultura diversa, sana, idonea all'indole intima e alla complessa e serena semplicità della vita? Una cultura in cui il conflitto venga accolto come ospite che porta sfida, insegnamento e illuminazione? E contemporaneamente quali possono essere i propri passi piccoli, uno dopo l'altro, che con pazienza, insistenza e compassione ci portano nel movimento ondulatorio della crescita? Sicuramente prima di potersi inventare una cultura diversa, conviene rendersi conto dei limiti delle condizioni attuali. Uno dei racconti fondanti della nostra cultura, l'Iliade, è un racconto di guerra. Inoltre, come hanno svelato le ricerche femministe in merito, è un racconto di guerra che testimonia la distruzione di Troia. Interessante la valenza che ha assunto oggi questo termine, e con essa l'eliminazione del matriarcato. Come ci fa notare Vicky Nobel, in La Dea Doppia, Venezia 2005, le fatiche di Eracle e Ercole raccontano con la loro simbologia la distruzione delle società matrifocali precedenti, incentrate sulla donna e sulla magia di tutto l'essere. Il teatro mitico a cui facciamo riferimento come occidentali è pieno di sentimenti guerreschi e azioni per il profitto personale, senza alcuna considerazione delle conseguenze sugli altri. Straripa di odio, gelosia, ire scatenate e competizioni inesorabili, vendette cruente e rimproveri irrazionali. Considerando ciò, magari cambia un'eventuale incomprensione di fronte al conflitto nel nostro mondo, presente in modo così preponderante nelle nostre vite, nelle nostre politiche interne ed esterne. I miti greci, quei racconti di dee e dei e dell'intreccio conflittuale e violento fra di loro e con il mondo umano e animale, sono l'espressione della distorsione patriarcale di una realtà potente preesistente. Sembra proprio che tanto più questa realtà è stata potente e autonoma, tanto più violentemente ne è avvenuta la reinterpretazione e la sostituzione con un sistema gerarchico e misogino. Nell'allenare lo sguardo e la comprensione ad andare oltre, attraverso lo strato di superficie dei miti per arrivare alle loro origini, possiamo diventare felicemente primitivi, nel senso letterale di prima dei miti. Ci possiamo collegare a realtà che precedono quelle narrazioni che ci vengono presentate come l'origine del mondo occidentale e della sua sfera divina. Un modello sociale che ispira autorevolezza femminile può essere trovato proprio oltre ai miti. Dichiararsi primitivi offre diversi vantaggi. Non accettare i miti greci come inizio della cultura permette di andare oltre e collegarsi alle realtà matriarcali precedenti che, coltivando la dignità della donna, venerano tutto l'esistente e se ne prendono cura. Concede di uscire dalle proposte patriarcali e reinventare i paradigmi della propria spiritualità nella libera vastità dell'osservazione autonoma dei cicli della vita. Nello sfatare il mito cristiano della creazione, si libera la strada per potersi riferire alla saggezza e alla potenza dell'incontenibile Lilith, colei che venne cacciata dal paradiso perché non arrendevole e obbediente, e la forza femminile che nella sua complessità non nega il suo lato oscuro, irascibile, non addomesticabile, sfugge ai dettami del patriarcato con la sua potenza incontenibile che diventa pazzia ove si cerchi di ingabbiarla. Invece di accontentarsi di un'Eva addomesticata e obbediente, ci svincoliamo da ogni possibilità di giudizio all'interno della cornice comportamentale conosciuta e accettata per ritrovare l'autenticità nella caduta libera. Può indurre timore questa incitazione all'intenzionale demolizione delle basi della cultura occidentale. E infatti è rischioso. Si rischia che si apra un varco nelle certezze, che le placche continentali delle proprie convinzioni comincino a muoversi, scontrandosi o allontanandosi fra loro, creando terremoti ed eruzioni vulcaniche, che le fessure raggiungano il nucleo bollente del proprio essere, dove a sorpresa e con tanto fumo e spettacolo possono emergere nuove terre. Ci sembra rischioso per la nostra esistenza perché abbiamo imparato a definirla in un modo circoscritto e limitato a un'apparizione fisica e a un'interpretazione psicologica. Ci possiamo sentire minacciate, provare paura di morire, sentire le fondamenta cedere, percepire l'infinità degli abissi e lo sgomento della caduta libera senza rete di salvataggio. Eh sì, tutto ciò è possibile. È il risultato dell'infrangersi di una definizione esistenziale con rigidi confini del proprio io, senza estensioni verso altri livelli di vita e della legittimità di esistere soltanto all'interno di parametri funzionali alla produzione di beni inutili e di una progenie alquanto penalizzata. Quindi, guardando bene, qual è il vero rischio? il vero rischio. Sembra rischioso lasciare andare le convinzioni che finora sono state la sostanza costituente della propria definizione, della propria identità, perché ci si abbandona alla decostruzione senza sapere dove si arriverà, senza sapere se si arriverà. Perché all'interno delle filosofie distaccate dalla fonte originaria della vita, che implicano che tutt'intorno ci sia un ambiente nemico, sembra vitale avere un'identità limitata e soprattutto continuamente difesa per poter sopravvivere come individuo. Non cedere al cambiamento vuol dire rimanere in una stasi in cui pian piano si perde vitalità. Non abbandonarsi alla decostruzione, quando arriva come sfida e offerta di insegnamento, vuol dire arrampicarsi su strutture sempre più rigide, senza aderire al flusso vitale dello sviluppo, del dispiegarsi della propria essenza. Ogni malessere o disagio, prima o poi, si esprime sul livello fisico nel suo tentativo di essere ascoltato. L'abitudine occidentale delega la responsabilità per la propria salute a mani esterne, come si delega la responsabilità per il benessere dell'anima ai mediatori di quel signore lì con la barba. Si affida il corpo quasi inanimato agli addetti al lavoro della medicina allopatica, lasciando che venga considerato un insieme di pezzi senza legame fra di loro, con qualche inspiegabile difetto che va riparato con interventi meccanici o chimici. Ma ciò non toglie il movente al corpo per farsi sentire. Quindi il malessere, la sofferenza inascoltata, il disagio soppresso, gli schemi che operano dal buio con grande potere e successo, ripercorrendo gli stessi sentieri, si faranno più udibili. E ricomincia il ciclo, un po' più pesante stavolta, con un po' meno risorse a disposizione perché già diminuite dal primo giro. Ignorare quei messaggi del corpo è altamente rischioso, se rischio viene definito come perdita di vita, di coscienza, di autonomia, di potere. Rimanere nella stasi del non cambiamento può portare a manifestazioni di non salute, non vitalità, non movimento, a eventi di grande impatto sullo scorrimento della linfa vitale come malattia o incidenti sul livello fisico e dell'anima. Abbandonarsi alla decostruzione, alla demolizione di sovrastrutture oramai nocive, è un atto magico di grande efficacia e autorevolezza, di grande potenza curativa. Non è, come forse può sembrare, un abbandonarsi totalmente a una forza altra, sconosciuta, un arrendersi all'impotenza. Presumendo che sono composta anche da parti di cui non sono pienamente consapevole, posso decidere di abbandonarmi alla loro sapienza con la certezza che la vita tende sempre verso la salute e che i processi che mi lanciano oltre al conosciuto, al di là della mia gestione consapevole, nascono da un volere profondo della mia espressione esistenziale, contribuiscono alla crescita della quantità di luce del grande insieme complesso di cui sono parte. È un atto che a volte conviene fare accompagnata, a volte riesce meglio da sola, in contatto con la natura, in un ritiro intenzionale. Compagna nemica. Nella cultura attuale, che insinua che tutto intorno sia sfavorevole, minaccioso e ostile alla realizzazione della propria esistenza, il conflitto trova nutrimento infinito nella nostra paura, prodotta da uno stato di distacco dalla vita stessa. Rivedere queste impostazioni è una mossa rivoluzionaria, imprescindibile, per poter accogliere il conflitto in maniera creativa e serena. Nell'affrontare un avvenimento ostile o una persona con cui mi trovo in difficoltà, posso provare a inglobare nel mio ragionamento mentale ed emotivo la presenza del campo morfico in cui esistono contemporaneamente la nostra storia e la situazione attuale, le influenze e gli interessi politici, nonché le pressioni sociali di ruoli non congruenti a un antico sapere e alla dignità di ogni donna. Allora posso comprendere compassionevolmente il disagio mio e di chi mi attacca, mi toglie il saluto, mi brontola dietro. Con il mio sapere consapevole, con il mio sentire amorevole illuminato dal contatto con la vita stessa, con la certezza di essere un luogo sacro come ogni altra donna, posso praticare un abbraccio compassionevole, anche virtuale, che accoglie le nostre sofferenze e la presenza degli schemi sviluppati per necessità di sopravvivenza. Posso accogliere la nemica nella consapevolezza della sorte condivisa e sciogliere con questo atto dolce e potente la funzione e il ruolo assegnatoci da una cultura a cui possiamo decidere di non aderire, di dare disdetta al nostro consenso per trovare e creare altro. Tutte le affermazioni tipo le donne litigano sempre, le donne si distruggono a vicenda facendosi concorrenza, le donne sono peggio degli uomini e così via, rimangono sul piano del palcoscenico, sul livello dei sintomi, della superficie del problema. Non c'è nutrimento per la crescita all'interno di queste affermazioni. Facendo girare a trottola queste asserzioni, opinioni, giudizi e proiezioni, si nutrono, forse contro la propria volontà e il proprio autentico interesse, le stesse imposizioni patriarcali che creano il terreno fertile per il problema. Se ripetiamo con parole e pensieri gli stereotipi di come le donne presumibilmente si comportano fra loro in un circoscritto contesto socioculturale, rimaniamo sempre la servitù obbediente di un sistema ostile alla vita e non accediamo alla nostra intelligenza sagace e autentica. Mi sembra utile riflettere che anche gli stereotipi positivi, tipo siamo tutte sorelle, possono avere sempre fiducia nelle donne. Noi stiamo sempre bene insieme. Le donne sono migliori degli uomini, ripetono lo stesso meccanismo. Non servono a creare una realtà autentica perché ripetono dei desideri ingenui, delle illusioni con cui andiamo avanti nella stragrande parte delle nostre relazioni con le donne, per scontrarci prima o poi con le condizioni reali delle nostre anime. La delusione può essere un potente movente per un bel conflitto di cui magari si rimane stupite e non si comprende l'origine. Sola, non sola. Nelle decisioni cruciali della vita ci si può facilmente sentire sola. All'interno di situazioni difficili come il conflitto si può avere l'impressione di essere sopraffatta, di non farcela da sola. Uscire da questo isolamento con la comunicazione, la condivisione, sicuramente è un passo importante e fondamentale per risolvere le situazioni poco piacevoli e per modificare le condizioni base da cui nascono. Si abbandona con la condivisione il famoso privato e la sua presunta protezione per entrare in un tessuto di collegamenti in cui il proprio vissuto assume tutto un altro aspetto perché visto in un intreccio ampio e comune, con motivazioni e stratificazioni oltre la sfera personale. Bisogna precisare che la sola condivisione dei fatti non include necessariamente l'impulso di mettersi in rete, di collegarsi, di essere in contatto con il campo morfico e quindi acquisire una consapevolezza politica di quello che sta succedendo sul livello personale. C'è chi condivide i fatti senza disponibilità a cambiare, rimanendo nel proprio dramma, forse ritenendolo l'unico posto sicuro, come se si cercasse la sicurezza in una prigione, con i suoi limiti imposti dall'esterno, perché almeno si conoscono le regole, gli orari e i guardiani. Se la paura è incombente e sembra insuperabile, può capitare che con il lamento e il racconto non si faccia altro che ribadire gli schemi che portano alla sofferenza senza via di uscita. Questa è una scelta. Va rispettata. La scelta di chi assiste può essere di accogliere la fonte originaria della sofferenza senza farsi intrappolare da racconti e lamenti infiniti, anche per non esaurirsi nel rapporto inflessibile di un modello bisognosa-donante. Così si evita di nutrire la ripetizione infinita dell'esperienza di superficie, ma ci si rivolge invece, anche senza azione visibile, al livello dove nascono la sofferenza e gli schemi di protezione e di sopravvivenza. È probabile che così, con un po' di pazienza, le cose cambino, o l'amica non racconta più perché sente che non può attingere la compassione desiderata sul livello che propone, oppure sente che viene accolta in profondità e si aprono possibilità di ricerca, comunicazione e condivisione molto più creative. Sole siamo inesorabilmente nella ricerca interiore, nel cammino che sfiora gli schemi e le impostazioni, ma contemporaneamente possiamo anche accompagnarci a vicenda in questo cammino. Possiamo sperimentare il profondo legame che ci accomuna, la ricchezza di condividere le ricerche profonde, le esplorazioni schiette e disinteressate all'importanza personale, la scoperta di sentieri che portano verso modalità vivaci e favorevoli alla vita. In questo senso, la fedeltà può assumere un significato diverso rispetto a quello che le viene abitualmente dato, legato all'obbedienza verso una persona o un'ideologia, più che a un'autenticità fluida. Possiamo prometterci di esserci fedeli nell'inesorabilità, nell'acume, nella sfida, nella compassione disinteressata. Ciò può comportare che l'aiuto offerto all'altra si vesta del non fare, del non aderire a un certo comportamento o a certe aspettative, del non acconsentire quando si avverte incongruenza, una serena incompromettibilità, rimanendo fedele al contatto contemporaneamente più intimo e transpersonale e al desiderio entusiasmante di crescita autentica. È un servizio di grande valore che possiamo offrirci l'una all'altra. Accogliere l'aspetto sapiente e illeso, immergersi nel niente dove c'è tutto, seguire le visioni, i sogni, le stranezze, concedersi la pazzia sana e la saggezza senza tempo. È questa la connessione che sostiene e genera la trasformazione culturale, capace di uscire dall'isolamento distruttivo e ripetitivo, nutrito da paure e mancanze. E così inizia un cammino. Forse non sempre leggero, ma creativo e sensato, colmo della promessa di renderci integre, autentiche e divertite. È allora che finalmente possiamo cominciare ad affrontare il conflitto fra le donne, consapevoli della portata politica del nostro agire, connesse con la fonte inesauribile della vita stessa, che permette di vedere, accogliere, nutrire e comprendere da una posizione di abbondanza e sensatezza, di potere acquisito e riconosciuto nell'altra, di stima per le sofferenze attraversate e rispetto per le scelte prese. Non c'è altra soluzione se non inventare le rivoluzioni e realizzarle nel proprio essere.